Buongiorno a tutti, io vi ringrazio per avermi invitata anche quest'anno a presentare uno scrittore in questo bellissimo festival che permette anche di conoscere questa zona così bella di Lugano e così sconosciuta. Io in 35 anni che ho vissuto a Lugano l'ho scoperta solo l'anno scorso e ringrazio gli organizzatori perché è veramente una bella occasione di coniugare musica e scrittori, tra l'altro che il gruppo suona una musica bellissima, mi scuso per aver voltato le spalle prima. E con noi c'è Astuzzi. Buonasera. Astuzzi in realtà è uno pseudonimo. Hans si chiama Adriano Bon, è milanese ed è uno scrittore, saggista e bibliofilo. È consulente editoriale e docente universitario al Master in Editoria Cartacea all'Università e Multimediale all'Università di Bologna. E come siete venuti per ascoltare lui, quindi... Astuzzi, perché? E poi come è stato scoperto? Perché per tanti anni sempre è stato conosciuto solo con questo pseudonimo, finché è stato proprio Umberto Eco a svelarlo. Sì, il piacere di scrivere sotto pseudonimo è una forma di depravazione mentale che alcuni scrittori hanno e si può spiegare in tanti modi. Stendhal appunto la spiegava con il piacere della mistificazione. Nello specifico, quando nel 2000 per le edizioni Bonnard, che erano delle edizioni specializzate in libri sulla storia del libro, Vittorio Di Giuro mi disse: se lei non fosse la persona più pigra del mondo dopo di me, potrebbe scrivere una bellissima guida al collezionismo librario. Io punto sull'onore. Scrissi un libro che si intitola Collezionare libri antichi, rari e di pregio. Scritto il libro, però, essendo il mondo della bibliofilia un mondo molto ristretto, si voleva che il testo venisse giudicato per i suoi pregi e difetti intrinseci, non per il nome che lo firmava in copertina. E così si decise di scegliere uno pseudonimo. E quale pseudonimo migliore del nome di un personaggio di romanzo che chiaramente subito dice: io sono uno pseudonimo, il capodivisione Hans Tuzzi dell'Uomo senza qualità. Due anni dopo scrissi il primo giallo della serie di Norberto Melis, che era ambientato anche nel mondo della bibliofilia milanese. Avrei voluto trovare un altro nome, ma visto che Astuzzi, il libro di Astuzzi, Collezionare libri, era andato molto bene a livello di vendite, da quel momento Astuzzi si è appollaiato sulle mie spalle e diventa me quando mi metto al computer a scrivere. Ma va benissimo così. Anzi, nella mia pervicace volontà di moltiplicare gli eteronimi, un po' come un piccolo Pessoa, sono riuscito a ingannare per due volte gli editori, perché naturalmente un editore punta su un nome affermato, non punta su un esordiente, per cui posso dire che circolano almeno due libri con due nomi che non sono i miei, ma non dico di più. Ecco, magari ci puoi dire l'anno in cui sono usciti, così faciliti le nostre ricerche, la nostra curiosità. Da tanto tempo non guardo più gli anni. Secondo me chiunque sia nato dopo il 68 ha una grande mancanza di buon gusto. Beh, questa affermazione però mi suggerisce un'altra domanda, perché io ho letto che lei viene definito l'ultimo dandy. Ma non so chi mi possa definire così, perché è vero che per essere dandy bisogna avere qualche chilo di troppo, ma io ne ho troppi di chili di troppo. Il dandy non è magro, contrariamente a quel che si crede. Apprezza come il dandy Baudelaire la magrezza dello scheletro, ma il vero dandy, pensate appunto a Barbé d'Orvilly, pensate allo stesso Brummel, pensate al Conte d'Orsay, pensate a Oscar Wilde, pensate a Richard Burton, non l'attore, l'esploratore. Erano tutti degli autentici dandy ed erano tutti con il loro embonpoint che serve per indossare bene un panciotto. Non credo di essere dandy se non per il fatto di essere, come dire, un po' al di là del mio presente. Questa è una caratteristica del dandy. Certo, si è dandy quando si rifiuta un certo aspetto del proprio tempo. Io non condivido molte cose del mio tempo e da questo punto di vista, non potendo fare la rivoluzione, assumo un atteggiamento che potrebbe essere definito dandistico, sì. Ecco, oltre al fatto che proprio dell'essere dandy ne parlerà a Mantova, se ho capito bene, però questo sì, fatto mi hanno di... la pochette. La pochette non manca. No, in effetti mi hanno chiesto di... Quest'anno a Mantova ho due incontri, uno con Manzini sullo stato dell'editoria italiana e l'altro invece appunto sul dandismo. E me lo ha chiesto Luca Scarlini, che organizza ogni anno queste letture collegate alla moda. Ora, come sapete, la moda non è una cosa bassa e banale e frivola nella cultura occidentale. Da Schiller la moda è ciò in cui si identifica la civilisation in contrapposizione alla Kultur. E non è un caso che nell'Inno alla gioia figuri la moda. Dio unisce ciò che la moda ha diviso, dice Schiller. L'interpretazione sarebbe assolutamente incomprensibile se non si ricollegasse appunto l'illuminismo tedesco, il suo concetto di moda, al concetto di differenze sociali, nel bene e nel male. Ecco, un accessorio indispensabile al dandy è il bastone. E in questo caso però è un accessorio indispensabile allo zoppo, più che al dandy. Però il bastone non è un bastone comune, ma è molto speciale, perché ha come manico la testa di un cane, di un levriero. La testa di Dora, sì. Dora, sì, ecco, sì. Io amo molto gli animali e Dora rientra in uno dei libri miei che più ho amato e, come spesso capita, uno dei figli più amati e uno dei più sfortunati, perché credo che sia in assoluto il mio libro che ha venduto meno ed è ormai introvabile. Si intitola Gli occhi di Rubino, di cani, di libri, di cani nei libri. Però gli animali hanno per me una grande importanza e ricorrono in diversi miei romanzi. Vanagloria, che è un romanzo l'unico ambientato in questi anni, perché io preferisco scrivere al passato, recente o remoto, ma Vanagloria è ambientato in questi anni ed è un romanzo incentrato sulla morte, la morte degli individui e la morte di una società. All'inizio ha una descrizione di una cornacchia in un parco pubblico di Milano che si apparta per morire. Ecco, la dignità nella morte degli animali è qualcosa che noi forse abbiamo dimenticato. Il nostro rapporto con la morte è un rapporto ormai privo di fondamentali, direi. Ecco, però visto che c'è anche un gatto, appare. Appaiono spesso gatti, no, ma nei miei libri appaiono molti animali. Io credo che le persone, fra l'altro, voglio dire, gli scrittori moderni hanno la fortuna di essere venuti dopo la volgarizzazione della psicoanalisi. Per cui là dove uno scrittore dell'Ottocento, Dickens o Balzac, impiegava due pagine per spiegare i moti interiori dell'animo di un personaggio, parentesi, ed è per questo che per noi i personaggi romanzeschi sono molto più vicini, conosciuti e noti dei personaggi storici, chiusa la parentesi, noi oggi possiamo rendere tutta una serie di moti interiori e di processi mentali interiori attraverso un gesto di reazione, attraverso un lapsus verbale, attraverso infinite altre. Io sono convinto che appunto l'abito fa il monaco, nel senso che dice molto di chi lo porta, e anche i compagni presenti o assenti nella nostra vita dicono molto. Ho ad esempio notato che sono rarissimi i religiosi che hanno un animale di compagnia. Forse Dio gli è sufficiente. C'era il Papa Ratzinger, però, che aveva, che aveva la gatta, per cui a Roma lo chiamavano la gattara. I romani sono veramente privi del senso del sacro, sono ormai un popolo aduso a tutto e privo della concezione della sacralità. Però era un'eccezione, poi era un papa, non era un prete, insomma. Sa che il papa in teoria potrebbe... Uno di noi domani può essere eletto papa, illuminati dallo Spirito Santo, i cardinali nominano papa. C'è una famosa commedia inglese incentrata su questo, Adriano VII, di un altro dandy, Frederick Rolfe, che si firmava Baron Corvo. Un qualsiasi laico può essere eletto papa, non occorre che sia prete. Però... Ecco. Invece prima ha citato Norberto il commissario Norberto Melis, di origine sarda, che vive a Milano. Perché la scelta di averlo creato sardo? E poi non so se ci vuole raccontare un po' di Milano, del suo rapporto con la sua città, quali sono le sue zone preferite. Sì, Melis è di origini sarde, in realtà non è nato in Sardegna, la famiglia si è trasferita con l'Unità d'Italia sul continente. Mi piaceva avere un personaggio con un cognome dichiaratamente non milanese, per confermare a me stesso che l'Italia e il mondo sono luoghi dove la gente si muove da tanto tempo, non da poco tempo. E quindi il concetto di milanese doc poteva già essere messo in discussione ai primi del Novecento, in teoria. È prima commissario, poi vicequestore a Milano, perché nel ciclo di Melis intendevo narrare degli anni che ho vissuto ormai con il raziocinio di un uomo adulto, ma con tutta la incomprensione che noi abbiamo nel nostro tempo mentre lo viviamo. Quindi ora rivedevo quegli anni che vanno dal febbraio 78, poche settimane prima del rapimento di Aldo Moro, a, se tutto funziona come deve funzionare, i primi mesi del 94, cioè la fine della Prima Repubblica, della cosiddetta Prima Repubblica in Italia, e in quegli anni volevo raccontare anche, usando il romanzo Con omicidio come chiave, volevo raccontare il mutamento dell'Italia. L'Italia usciva in quegli anni da una stagione durissima ma viva, come quella degli anni di piombo, dei cosiddetti anni di piombo, che formalmente terminano con la strage del 1984. Si incammina verso quelli che verranno chiamati gli anni della Milano da bere. Tante cose si avvertivano, ho dei ricordi chiarissimi proprio dello stupore nel vedere nelle edicole il primo settimanale di bellezza e di cura del corpo per uomini. Dopo più di 15 anni in cui il personale è politico, uno usciva con un settimanale di cura del corpo maschile. E i commenti erano: ma questo è pazzo. No, Eravamo tonti noi che non avevamo capito che l'aria stava cambiando pesantemente e che ai settimanali di politica, di analisi sociale, di pensiero, si sarebbero sostituiti settimanali di addominali o, nel mio caso, di lardominali, ma comunque di aspetto dell'esteriorità del vivere, quella che appunto poi si riassunse nel geniale slogan della Milano da bere. Quindi Milano, in questi romanzi del commissario Melis, è lì sullo sfondo, ed è un personaggio. Il crimine consente di ambientare nel medesimo romanzo, naturalmente ogni romanzo si può leggere come romanzo a sé, non è un ciclo, come dire, a puntate, però nel medesimo romanzo possono intervenire i ceti sociali più diversi. L'alta borghesia, quella le cui case a Milano non si vedono neanche, perché le vere belle case di Milano sono nascoste, sono invisibili, e la casa di ringhiera che si sta iniziando a ristrutturare e quindi si stanno mettendo i gabinetti all'interno, non più sulle ringhiere, e la vecchia che è l'ultima rimasta della vecchia generazione di questi abitanti della casa, ogni mattina esce sulla ringhiera e grida «Buongiorno, popolo senza cesso!» perché lei è stata la prima ad avere il bagno ristrutturato. Particolare che ho preso dal vero, sia chiaro, perché le cose che possono sembrare in questi romanzi più fantasiose, più buffe o più arzigogolate sono tutte rigorosamente prese dal vero. Cercando di non essere però troppo schiacciato sulla verità, perché la vita si può permettere delle coincidenze che il romanziere non si può permettere. Quando Camus morì nell'incidente di macchina tornando dalla Provenza con Gallimard al volante, il primo medico accorso a portare le prime cure del tutto inutili perché erano morti tutti sul colpo si chiamava Camus. Ecco, la vita può permetterselo, un romanziere fino a questo punto non può arrivare. È vero, e quindi prende dalla realtà le proprie storie, ma in che zona di Milano si ispira meglio? Beh, ci sono zone che conosco meglio di altre, però evito di farmi troppo coinvolgere mentre scrivo dalle mie preferenze personali. Ad esempio, oltretutto, visto gli anni in cui ambiento i romanzi, non posso prendere in considerazione dei quartieri che oggi sono completamente cambiati e che a me affascinano anche in parte in relazione a questo loro cambiamento. Penso a tutte le aree ex industriali, ora convertite a studi professionali legati al design, alla grafica, eccetera, tutta la zona di Via Tortona. Penso a edifici industriali trasformati in musei, come il caso del MUIC. Penso a edifici come il Museo Prada, che riprende una vecchia fabbrica abbandonata in quello che era un piccolo paesino a sé stante, poi inglobato dalla città fra Piazzale Lodi e Via Ripamonti, e con l'aiuto di un bravissimo architetto ha fatto un centro espositivo notevolissimo, insomma. Queste cose non ci possono essere perché Milano allora era diversa, però ce ne sono altre, per cui delle periferie che adesso sembrano quasi dei quartieri schiacciati sul centro, allora respiravano ancora gli aspetti caratteristici di una periferia. Perché poi Milano in questo era fino a tutti gli anni, fino alla metà degli anni Ottanta, non era così a macchia di leopardo come potrebbe sembrare, era una città dalle differenze abbastanza nette, ecco, si passava improvvisamente da locali pubblici di un certo tipo ad altri completamente diversi. Io per solito amavo e amo gli altri completamente diversi, ma questa è un'altra storia. Mentre c'è un altro personaggio che è appunto protagonista di una saga. Io ho appena saputo, un po' in anteprima forse, che un altro che sarà, che c'è anche appunto in cantiere un terzo romanzo, e questo è Neron Vukcic, appunto, che è del periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale. È un insomma, sì, chi è Neron Vukcic? Perché mi sì, chi è Neron, chi è Neron Vukcic e chi potrebbe essere? Ma gli anni che vanno dalla morte della Belle Époque fino a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, fino alla Guerra di Spagna, sono anni che mi hanno sempre affascinato, nel senso latino del termine fascino, cioè attirato e spaventato. Sono anni che mescolano insieme frivolezze e tragedie, sono gli anni dove il Novecento si manifesta nel suo modo più tragico, proprio più feroce. E volevo scrivere una trilogia che, giocando su un personaggio in moto attraverso l'Europa e il Mediterraneo, consentisse di parlare di certe cose. Quando si scrive un romanzo storico si hanno sempre due problemi di fondo, perché si deve richiedere al lettore la sospensione dell'incredulità, quella che Longfellow teorizzava a proposito degli spettacoli teatrali, no? Noi andiamo a teatro, vediamo un ciccione che ci dice di essere il principe di Danimarca e noi crediamo, sì, va bene, tu sei il principe di Danimarca, ci credo, perché sennò non sarei venuto a vederlo. Ecco, questa sospensione di incredulità, quando si scrive un romanzo storico, cioè un romanzo ambientato in un periodo che ci è noto nei suoi snodi principali, deve essere ottenuta con dei mezzi molto, molto particolari. Faccio un esempio banalissimo e prendo volutamente ad esempio un romanzo di genere, ma scritto da uno scrittore che sa scrivere. Penso al Giorno dello Sciacallo. Il lettore che prende in mano il Giorno dello Sciacallo sa benissimo che De Gaulle non è mai stato ucciso dall'OAS in un attentato. E allora? Perché si fa incatenare alle pagine e legge fino in fondo? Se sa benissimo che il killer non riuscirà ad uccidere il generale De Gaulle. È una bella domanda che ogni aspirante scrittore dovrebbe porsi. Io, nel momento in cui ho iniziato a concepire il trio dell'Arciduca, il primo dei tre volumi di questa trilogia, mi sono posto il problema, anche perché nel trio dell'Arciduca c'è un evento storico che tutti conosciamo. Non dico quale, però. Dei gialli si parla poco. A quel punto una possibile chiave era mettere un protagonista che fosse non del tutto ignoto al lettore, ma attenzione, non deve essere un personaggio storico reale, perché questo è un errore micidiale. Pensate a Tolstoi in Guerra e Pace. Noi sentiamo parlare una sola volta Napoleone, che è un'ombra che passa davanti al principe Andrei moribondo, almeno noi in quel momento pensiamo sia moribondo, e dice: ecco un prode. Ma Tolstoi si guarda bene dal far agire Napoleone o lo stesso zar Alessandro in prima persona nel romanzo, perché sa che quella sarebbe una caduta di credibilità. L'unico personaggio storico che fa agire, e poco e soprattutto attraverso la visione che ne ha Andrei, è il generale Kutuzov. Allora, nello scrivere questo primo romanzo della serie, ho avuto una buona ideuzza. Cioè, se davvero a noi sono più familiari i personaggi letterari, avrei potuto pensare di prendere quello che potrebbe essere un personaggio letterario da giovane, senza dirlo apertamente, divertendomi a lavorarci sopra. Secondo i truccatori cinematografici è molto più difficile ringiovanire che invecchiare. E i prequel sono sempre molto più difficili dei sequel, perché in un prequel bisogna rispettare il carattere del possibile modello, ma, come dire, in nuce, come un seme che non è ancora pianta. Ciascuno di noi a 20 anni era diverso da come siamo ora. E avevo un personaggio letterario che si prestava splendidamente, perché come il mio era giovanissimo agente segreto austro-ungarico nel corso della Prima Guerra Mondiale. Come il mio, dopo la Prima Guerra Mondiale, avrebbe avuto a che fare con l'Egitto. E come il mio, dall'Europa se ne sarebbe andato in America. Il mio personaggio di cognome si chiama Vukcic e di nome Neron. Vuk in slavo vuol dire lupo. È evidente quale potrebbe essere il modello, però sottolineo, potrebbe essere. E non lo dico per timori di diritti, lo dico perché il personaggio è altra cosa. È un 21enne nel trio dell'arciduca e ha 28 anni nel Sesto Faraone, che si svolge ad Alessandria d'Egitto. Mentre nel trio dell'arciduca, ambientato fra Trieste, Vienna e Costantinopoli, assistiamo alla follia del rigido meccanismo di alleanze che conduce alla Grande Guerra e alla dissoluzione dell'Europa come insieme di superpotenze, nel Sesto Faraone, ad Alessandria, nel 1921, avvertiamo tutti i sinistri scricchiolii del mondo coloniale. Gli imperi coloniali finiranno di lì a poco nella Seconda Guerra Mondiale, ma finiranno perché il demone del nazionalismo ha contagiato anche quelle popolazioni che i grandi imperi buttarono nelle trincee durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco, e tra l'altro proprio tutta l'ironia di Hans, chiamiamo Hans oggi. Chiamiamo Hans, Hans. Sul lavoro c'è Hans. Il Sesto Faraone, ma che cos'è il Sesto Faraone? Ah no, questo è no. Questo è anche un giallo, per cui cos'è il Sesto Faraone non si dice, se no si dà solo un leggendo. Indizio. Diciamo che così come nel trio dell'arciduca mi sono divertito con la spy story vista da dopo, a eventi delineati, con il Sesto Faraone mi sono divertito con il giallo classico dell'epoca d'oro, fra gli anni 20 e 30, perché naturalmente Vukcic nasce come agente segreto, ma poi risolverà nella sua vita alcuni casi di omicidio che lo porteranno poi a New York a fare tutt'altro mestiere. Ecco. Perché comincio già a dirvelo, i libri di Hans Tuzzi sono in vendita in un banchetto qui di lato e lui si è molto disponibile ad autografarli, quindi non possiamo dire chi è il Sesto Faraone, perché proprio dovete leggere il romanzo per scoprirlo, e ne vale proprio la pena perché è molto intrigante, molto bello. Magari vuoi dirci qualche cosa di Tamar Margulies, mercante di spezie? Sì, è un personaggio che era già comparso nel trio, fa parte di quella borghesia internazionale, nello specifico ebraica, che rendeva i porti del Mediterraneo delle grandi finestre aperte sul mondo. La mia famiglia materna era austriaca e fra i ricordi d'infanzia di mia madre, nata quando Vienna era ancora capitale dell'impero, vi era il porto di Trieste, dove lei, bambina piccolissima, aveva visto per la prima volta i negri immersi in un profumo di caffè che impregnava allora tutto il porto, perché Trieste era il maggior centro di importazione di caffè per l'Europa centrale. Allora, io posso immaginare lo stupore di una bambina nel 1917-1918, in piena economia di guerra, quando in un porto vede per la prima volta l'uomo nero. No? Per noi è difficile pensare a un mondo europeo dove era un evento il passaggio di un circo con animali esotici. Eppure era così. Eppure era così. Allora, negli anni dopo la Grande Guerra, per molto tempo i grandi porti mediterranei, Alessandria, Genova, Marsiglia, Costantinopoli, furono sedi di aziende che erano di fatto multinazionali, nel senso che avevano sedi nelle varie nazioni. E il personaggio di Margulies consente anche di parlare dei problemi di gestione che nascono quando in Europa due grandi imperi multinazionali, l'impero austro-ungarico e l'impero turco, collassano. È abbastanza interessante, naturalmente romanzi di questo tipo richiedono una grande documentazione, è abbastanza interessante leggere non solo studi su quel periodo, ma anche libri dell'epoca, perché si scoprono tante cose che non si penserebbero possibili. Un mondo dove si girava senza bisogno di documenti. Non c'era la necessità di documenti di identità, al di là in alcuni paesi di carte molto generiche, potevano servire a chiunque, fosse vagamente simile a un altro. La possibilità di movimentare somme o stipulare contratti che paradossalmente oggi la nostra società sta limitando. Sono delle considerazioni curiose. E personalmente, anche se mi rendo conto che a volte i cancelli sono utili, sono sempre rimasto più affascinato dalle finestre che non dai cancelli, ecco, non so come dire. Cioè mi piacciono i luoghi dove si incrociano popoli e civiltà. È una convivenza da sempre molto difficile. Ed è molto difficile perché da sempre è assai più facile parlare alla pancia delle persone che non al loro cervello. Ma questo è un altro discorso, ci porterebbe molto lontani. Ecco, e nella sua produzione ho visto che ci sono anche libri di viaggi e libri di cucina. Non esattamente di cucina. Ci sono libri di viaggi e libri di memoria. E, Zafferano sì, Slow Food. Sì, sì, sì. Zafferano è in una collanina di Slow Food, dove però gli altri autori dovrebbero garantire della letterarietà più che della coquinarietà della collana, perché ci sono l'Agnello Hornby, ci sono La Gioia, insomma vari scrittori, Slow Food chiedeva solo che vi fosse toccato l'argomento cibo, che peraltro io tocco abitualmente nei miei libri, perché l'uomo è anche ciò che mangia, no? Mi ricordo un bellissimo film canadese minore, di quelli che si vedevano quando le cineteche a Milano funzionavano, che inizia con una scena di coppia. Marito e moglie si trovano in un posto vicino ai rispettivi luoghi di lavoro e pranzano insieme. Lei mescola nel piatto i cibi diversi e li mescola fra loro e li mangia con gusto. Lui spiluzzica in punta di forchetta, tenendo rigorosamente separati non soltanto carne e verdure, ma i tipi di verdure. L'evidente crisi matrimoniale della coppia è già tutta lì, è già tutta detta lì. Quindi quando lo Slow Food mi chiese un libricino di quel tipo, non ebbi nessuna difficoltà. Presi una scheggia da un romanzo che uscirà postumo per mia scelta e scrissi questa scheggia memoriale, questa scheggia di memorie dove giocano un ruolo le spezie, le donne di casa che cucinavano, la mitica Natalina che per me era la Befana travestita, cioè ero convinto, dato che sembrava Pulcinella per arco nasale e mento che si toccavano, io ero convinto che lei fosse la Befana, che per 364 giorni l'anno stava a casa nostra, poi la notte dell'Epifania girava e dava ai bambini. Allora c'è questo libricino molto breve, ma che amo molto, perché trovo che molte cose mie, quando mi limito nella dimensione della scrittura, siano anche più, come dire, più depurate. Ecco, mentre vedo l'Irlanda, il paese dei sognatori, per il Touring Club. Sì, quello era un diario di viaggio, anzi di due diversi viaggi in Irlanda, un paese che amo molto da un punto di vista storico e naturalistico. Il Touring anche lì aveva una collana di narrativa, di diari di turismo, di autori contemporanei, me lo chiese e si scrisse e sono contento di averlo scritto. So benissimo, ecco qui se posso aggiungere una cosa, so benissimo che guardando la mia bibliografia sembra che io butti giù un libro in una settimana, come faceva Simenon. Non ho questa abilità, però ho un altro dono. Io riesco a lavorare in parallelo a più libri, diversi fra loro, naturalmente in fasi diverse di lavorazione. Questo mi consente di consegnare all'editore con regolarità un libro all'anno, però il tempo medio di scrittura di un libro per me varia fra i 2 e i 3 anni, non di meno. Però, tanto tempo. Qui vedo però che ci sono anche dei libri, dei saggi, firmati Adriano Bon. Questo fa parte di un lontano passato. Mi incuriosisce molto, per esempio, come leggere Il giardino dei Finzi Contini. Ma queste erano cose fatte appena laureato, erano delle derivazioni della tesi di laurea, il primo. Poi di parlare degli altri scrittori mi sono stancato, anche perché c'è un episodio abbastanza divertente che mi scoraggiò dal proseguire su questa strada. Quando a Milano, in Corso Vittorio Emanuele, c'era ancora le Messaggerie Italiane, che era una delle rare librerie su 2 piani o addirittura 3, dove si trovassero libri stranieri, altri se ne trovavano dalla Feltrinelli di Via Manzoni. Era un mondo diverso, non c'era Amazon che in 7 giorni ti manda il libro americano, eccetera. Dovevi ordinarlo, passavano settimane, eccetera, eccetera. C'era tutto il piacere dell'attesa, come sotto Natale. Allora ero andato alla libreria, alle Messaggerie Italiane, per un libro e mentre facevo la fila avevo di fianco la colonnina di quelle edizioni, per l'appunto, dove c'erano 2 miei titoli. E dietro 2 coppie di giovanissimi, ormai avevo i miei 27-28 anni, loro ne avevano 16-17. E uno di loro dice: ma guarda te che libro, Adriano Bon, come leggere la coscienza di Zeno, ma più cretino di chi la compra c'è solo chi l'ha scritto. E io per un attimo ho detto: adesso mi giro, tiro fuori la carta d'identità e dico: il cretino sono io, ma ha ragione lei. Ho lasciato perdere, però da quel punto ho detto basta con i come leggere, se uno non sa come leggere il problema è solo suo, facciamo altre cose. E così è nato, poi dopo diversi anni è nato Astuzzi. E quindi è nato Astuzzi, è nato da, sì, facendo, sì, la fila. C'è una cesura netta fra le due figure, ecco. C'è qualcuno che vuole porre qualche domanda? Vuole avvicinarsi? Prima lei ha detto che il nostro rapporto con la morte è privo di fondamentali. Mi piacerebbe se dicesse qualcosa in più. Volentieri. grazie. Tranne che nel caso di incidenti o di tragedie come quella che stiamo vivendo in questi giorni in Italia, noi non si nasce più in casa e non si muore più in casa. E in ospedale si muore nel modo più asettico possibile. E quando si entra in agonia, negli ospedali italiani che non sono a camere singole, ma quando va bene a camere doppie, viene teso un paravento che nasconde il moribondo. Chi di noi ha lavato un cadavere? Nessuno. La prima volta che andai in India, paese che devo dire non amo in modo particolare, perché trovo che la filosofia indù sia di una crudeltà e di una durezza incredibili sotto l'apparente tolleranza, mi colpì subito vedere i moribondi trasportati a piedi sui lenzuoli nei giardini sacri, vicino ai fiumi. A Kathmandu, il mio bungalow era vicino al giardino che adesso hanno chiuso ai turisti, che dava sull'affluente del Gange, dove quindi, in un giardino come potrebbe essere il vostro parco comunale, il giardino Sempione, il parco Sempione a Milano, si camminava fra le pire funebri. Le assicuro che dopo un primo momento raramente ho trovato luoghi che conferissero un altrettanto forte senso di pace. Noi troviamo ormai maleducato, contrario al galateo, persino parlare di morte a tavola. E questo non fa bene. Questo non ci fa bene. Non saprei dire in che misura, perché, in quale forma, con quali conseguenze, ma questo non ci fa bene. La morte è l'esito naturale di un'esistenza. Io ho ringraziato il caso che quando è morto mio padre, è morto in casa, fra l'altro io non avevo un buon rapporto con mio padre, però è morto in casa e ho potuto aiutare la persona chiamata per lavare il cadavere, ma soprattutto a Milano non esisteva ancora il crematorio ufficiale che c'è adesso a Lambrate, tristissimo. C'era un crematorio altrettanto triste proprio di fronte al policlinico di fianco all'università. E consentivano ai parenti che l'avessero voluto di raccogliere personalmente le ceneri, cosa che ho fatto rappacificandomi un poco con la figura paterna e coi miei fantasmi. Per mia madre non l'ho potuto fare, perché ce lo vieta la legge. Cioè la legge vieta ad Antigone di stare vicino al cadavere del suo caro. Non fa bene questo. Creonte finisce male. Guarda, merita un applauso veramente questo intervento. Grazie. C'è qualche altra domanda? Per chiudere su un tono un po' più frivolo, se me lo consente, lei mi ricordava prima che fu Eco a svelare la mia identità. Allora, l'aneddoto è in sé abbastanza divertente, nel senso che quando uscirono i primi libri di Tuzzi e l'anonimato fu conservato rigorosamente per 4 anni, Pasquale Chessa su Panorama disse è Pontigia, altri dissero no è Eco. Fortunatamente, conoscendoli entrambi, telefonai e dissi scusate, io non c'entro niente, non, prendetevela con loro, mi scuso. Quando nel 2004, per l'appunto, Eco mi propose, detto così sembra chissà che cosa, la docenza, il master, mi disse vieni a tenere qualche lezione al master all'Università di Bologna, io dissi sì. Ma col mio vero nome o come Astuzzi? Ah, come Astuzzi ovviamente, vieni a parlare di libro antico, hai pubblicato saggi sui libri antichi, vieni come Astuzzi. Dico, allora guardi, se devo venire come Astuzzi, lei, perché poi alla fine ci siamo stabilizzati regolarmente su lei, un'abitudine che io trovo molto civile, lei però rivela chi sono prima, perché sennò sul web lo scopre chiunque. E così complice e intermediario Vittorio Di Giuro, il fondatore della Bonnard, che era stato l'editor del Nome della Rosa, si fece la presentazione alla Milano Libri, libreria storica di Milano, di fianco alla Scala, dove nacquero i Peanuts, perché la proprietaria della Milano Libri era la sorella e la moglie di coloro che avevano importato Schulz a Milano, traducendolo insieme a Deco e al notaio Cavallone. Naturalmente, attirati più dal nome di Eco che dal mistero Tuzzi, molti vennero, per cui la libreria era gremita. Chi passa regolarmente di fianco al Teatro La Scala a Milano? Le comitive dei turisti giapponesi, la cui principale attività è scattare foto. Cosa attrae immediatamente un turista giapponese? Un meraviglioso edificio del 400? No, una folla. Per cui il primo gruppo di turisti si ferma e inizia a fotografare quelli che sono dentro. Arriva un secondo gruppo che inizia a fotografare spingendo dentro il primo contingente di giapponesi. Insomma, al terzo gruppo sono dovuti intervenire i vigili urbani perché in Via Verdi il traffico era bloccato. Fu un successone, ma non per merito mio, per merito di Eco e dei giapponesi. Però il mondo seppe che Astuzzi era Adriano Bon, che poi tenne le lezioni all'Università Bologna. Sì. Ecco, però io, se nessun altro desidera chiedere qualcosa, avrei ancora anch'io un paio di domande curiose. Per esempio, se ha mai pensato di ambientare qualche suo romanzo in Svizzera, in particolare in questa zona, nel Canton Ticino? Le suggestioni sono tante, lo confesso. Al momento no. Ma non escluderei che la mia vena, ad esempio, rivolta verso la letteratura dell'orrore ottocentesca, possa pensare a un Monte Verità con qualcosa di vampiresco, così, non lo escludo. Poi però dovrei pagare lo scotto perché non mi ospitereste più a Lugano. Quindi, però non lo escludo, perché sotto l'ordine e l'apparenza il lettore si aspetta ovviamente che si celino il disordine e qualche segreto. Uno dei romanzi che io appunto ho scelto di portare qua è che il trio dell'arciduca, no, forse non ho pescato no, giusto. È quello no. In mezzo, è quello. È questo qua. No, questo è dedicato a Carnegie. Il Morgan, no. Sì. Allora non so di che cosa... No, che è ambientato nell'Alto Verbano e ha una un enigma dal passato. Un enigma dal passato ambientato nell'Alto Verbano, però c'è da dire una cosa. E siamo arrivati vicino però sì, anche al Monte sì, Verità. Sì, sì, sì, però c'è da dire una cosa, che i luoghi dell'Alto Verbano li conosco bene, molto bene, e quindi mi ci muovevo bene. Io credo che un autore debba sempre ambientare le storie che narra in posti che conosce, non perché debba fare la guida turistica o debba essere un registro di strade che effettivamente esistono o esistettero, ma perché ogni luogo ha un suo spirito, ha una sua anima, un suo modo di presentarsi, e solo conoscendolo se ne coglie la natura e la si può rendere magari in minime velature di pennello, ecco, senza star lì a... Per cui l'Alto Verbano, sì, ci ho passato, c'era la seconda casa dei miei, insomma, tante cose. Lei lavora per Equitalia? No, però la casa era a Darona, con San Carlone incombente, invisibile ma incombente. Però da lì in macchina l'Alto Verbano era una delle mete preferite, anche per far correre i cani in altura, ovviamente. No, comunque la Val Grande, non lavoro per Equitalia, cioè... ma organizzo un premio letterario per racconti gialli ambientati sui laghi. No, ma questo lo so, ma non sono un autore potabile da questo punto di vista, perché c'è solo quello di romanzi ambientati vicino a un lago. Ecco, e poi invece ho notato che ci sono anche delle ambientazioni curiose, cioè o almeno citazioni. Druonio, sempre nello stesso romanzo, e poi anche Abbiategrasso, che è una località dove difficilmente qualcuno pensa di ambientare qualcosa. L'ultimo giallo di Melis, uscito un anno e mezzo fa, La figlia più bella, è ambientato nella provincia di Abbiategrasso. Anche lì rientra in questo discorso di Milano e del suo hinterland come coprotagonisti dei romanzi, perché il romanzo è ambientato nel 1986. E a me nel 1986 sembrava già che le campagne di Abbiategrasso fossero ampiamente urbanizzate. Mi sono poi reso conto che per i figli dei miei amici quei luoghi erano selvaggi come un'Africa domestica ancora. C'è un bellissimo verso di Luciano Erba sulle periferie milanesi con queste improvvise distese di verde non costruito, dice un'Africa immaginata. Ecco, per i figli dei miei amici nell'86 quegli stessi luoghi che a me sembravano ormai cementificati erano un'Africa immaginata. Allora mi sono reso conto che un giallo ambientato nell'86 a Abbiategrasso poteva ancora rendere quel climax in cui la grossa e bella, perché fra l'altro è una bella cittadina storica, la grossa e bella cittadina a un quarto d'ora di macchina da Milano è in realtà immersa in campagne che sono ancora senza tempo. E non a caso il delitto si svolge in una di queste cascine immerse in un clima dove Milano è ancora un po' un luogo di scoperta, di viaggio, un luogo non da tutti i giorni. E quello cioè che a me sembrava essere Abbiategrasso negli anni 60, ma evidentemente non era così. Druonio invece fa parte di una... c'è un riferimento a Druonio collegato a famosi processi per stregoneria, e fa parte di un certo qual interesse ironico che io sempre nei confronti delle credenze attuali nella stregoneria, che ricorrono in alcuni miei romanzi e che hanno a che vedere con le forme di svilimento di conoscenza che i mezzi di comunicazione di massa danno rispetto a realtà che sono in sé curiose, ma che richiederebbero un approccio ben diverso e uno studio ben diverso, ecco. Cioè la stregoneria fu una realtà in quanto ci furono i processi alle streghe, ecco. Certo. No, non in quanto ci furono le streghe, è una cosa un po' diversa. In quanto si credette che ci potessero essere le streghe. Poi per un laico convinto come me fa sempre un certo effetto pensare che non fu il Medioevo l'epoca storica della stregoneria, perché la Chiesa dava per scontato che le streghe fossero delle povere malate di mente che pensavano di andare ai sabba. Il primo tribunale che comminò una pena capitale per partecipazione reale al sabba fu il tribunale laico della città di Parigi. Anche su questo a volte converrebbe meditare. Ecco, poi per chiudere, se nel frattempo non è venuta nessun'altra curiosità, la domanda d'obbligo, cosa ci riserva il futuro letterario di Astuzzi? Posso dire con assoluta certezza che usciranno tre titoli. Uno è un nuovo Melis, si intitola La belva nel labirinto ed è ambientato a Milano, uscirà a marzo del 17. Mentre La figlia più bella tratta del male che viene a noi non dall'uomo, ma da qualcosa di estraneo e superiore all'uomo che tante civiltà hanno chiamato Dio, cioè perché si nasce con un gene in meno, perché si nasce con un difetto nel DNA, perché si nasce con delle malformazioni fisiche o psichiche, perché ci si ammala e si muore, non lo sappiamo, no? È la grande domanda di Gilgamesh, di Giobbe, di tutta la letteratura sapienziale. Allora, La figlia più bella trattava del male sotto questa forma. La belva nel labirinto tratta invece del male che l'uomo fa all'uomo. L'uomo è l'unico mammifero che uccide scientemente i cospecifici. Nessun altro mammifero uccide i cospecifici. In condizioni naturali, ovviamente. L'uomo sì. Perché? Perché il male è dentro di noi. E questo romanzo si pone queste domande. Non aspettatevi risposte, perché sono convinto che un romanziere non deve dare risposte. Un romanziere deve porre delle domande che fanno ragionare. Le risposte, non, nessuno di noi ha le risposte in tasca. Chi sono io per avere risposte? E questo uscirà a marzo. A maggio uscirà un ciclo di 10 conversazioni, non mi piace chiamarle lezioni, tenute per Radio Popolare a quella che loro chiamano scuola di scrittura, ma dato che io esordii dicendo che chi si aspetta di imparare qui come scrivere cosa può tranquillamente non venire, perché se devo spiegarvi come scrivere cosa vi conviene lasciar perdere le lezioni di scrittura, io vi spiego cosa fare prima e durante la scrittura, che è diverso, e questo libro uscirà a maggio, sempre per Bollati Boringhieri, e il prossimo mese l'ho a casa, devo dare l'ultima rilettura, il terzo e ultimo Vukcic, che però non abbiamo ancora definito come data di uscita, perché poi su questo si sa le case editrici sono molto attente, quindi non sappiamo se sarà l'autunno dell'anno prossimo o il febbraio del 18. È l'ultimo romanzo di Vukcic, chiude la trilogia, si svolge tutto sul transatlantico di gran lusso che lo sta portando a New York nel 1926, quando tutti sono felici e contenti di vivere, si sono dimenticati la Grande Guerra e nessuno immagina che di lì a poco almeno 8 dei 9 dei tanti personaggi si butteranno da un piano d'alto dei grattacieli di New York, perché la grande crisi li avrà ridotti in povertà. Ecco, e prima mi ha accennato a 5 riletture dei romanzi. Sì, io rileggo molto quel che scrivo. Li rileggo mentre li scrivo, spesso ricomincio dall'inizio, e la media sono, sì, 5 riletture, nelle quali, in ciascuna delle quali, asciugo, pulisco, magari aggiungo interi capitoli, però ogni frase viene asciugata, perché secondo me scrivere significa togliere. Cioè aveva ragione Browning quando diceva less is more. E io vorrei ringraziare tantissimo Astuzzi per questa bellissima conversazione, ma soprattutto anche per averci emozionato con la sua risposta alle sue riflessioni sulla morte. Questa è una dimostrazione che spesso dietro un libro, dietro una penna, un computer, c'è anche un grandissimo uomo. Non lo so, direi un grosso più che grandissimo. Grazie, grazie davvero, molto gentili, grazie.